24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Cento, che poi mi hanno detto giustamente non è ok il pezzo giusto, è la ruota della fortuna. Cento, cento, cento, cento. No, è ok il prezzo giusto. Allora, cos'era la trasmissione? Non lo so. 100, 100, 100, 100. Comunque, vedi, c'è la voce della Zanicchi. Si chiude la settimana numero 100, settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Evviva! L'italiano è così individualista che sta diventando come un attaccante del calcio balilla che non ha mai visto in faccia i suoi compagni di squadra. Ma in fondo per noi l'importante è precipitare. L'italiano batte le mani quando il suo aereo atterra, ma non batte ciglio quando il paese affonda. L'italiano fa casino durante il minuto di silenzio, ma poi sta in silenzio per anni quando dovrebbe far casino. Musicalmente preferisco Jovanotti, come apertura mentale mi confronto volentieri con Jovanotti, che la pensa diversamente da me. Le poste entreranno in Alitalia e mia nonna, che ha paura di volare, penso non andrà più a ritirare la pensione. E sai che mio figlio è andato al concerto di Fedez, però purtroppo è un problema che ho in famiglia e Fedez mi sembra un talebano. Per ogni suo ritardo il sindacato è caldo, ma qua è tutto troppo calmo tra chi incrocia le braccia e chi incrocia uno sguardo. Non so, se si metteranno d'accordo, facciano un canta che ti passa, non è un problema loro. I figli di papà si fanno le raccomandate. L'italiano è scaltro, l'italiano è furbo, l'italiano è contro le unioni gay, ma poi si fa inculare dal politico di turno. Si esce dal buio. Vabbè, sì, siamo arrivati al litigio tra Salvini, Fedez e Jovanotti. Si smette di... È così. Succede anche questo in Italia, succede anche questo. Jovanotti che non apprezza Salvini, Salvini che gli dice io apprezzo la tua musica, Jovanotti che gli dice alla Voltaire, eh sì, io non sono d'accordo con te, ma puoi dire quello che vuoi, va bene. E allora si inserisce Fedez che dice ma come, Jovanotti apprezzi un razzista? E Salvini che dice mio figlio è andato al concerto di Fedez, ho un problema in famiglia. Parzialmente stremato, è il senso del ridicolo che continua a fare danni in un paese senza tempo, ormai fermo agli anni Ottanta, qui dove il giovane regista ha appena compiuto 40 anni e il giovane architetto invece ne ha 50. È l'italiano che... Succede questo, siamo in Italia, bentrovati cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino, siamo in diretta e oggi andremo in diretta fino alle 9:30. Poi se ne va in guerra. Poi io per una settimana mi fermo, eh. Si esce dal buio, sai. Ci si passa dentro. Si smette che dovete farci, un po' debosciato sono anch'io, in fiera una settimana, vi penserò molto, però penserò molto a Lorenzo Nespoli in redazione, al nostro Peter Bescapè in regia, penserò moltissimo anche al nostro Vincino, grandissimo Vincino, come stai? Di schifo, no. Siamo qua in diretta dalla stazione milanese, in attesa di poter tornare a Roma. Eccoci qua. Sei a Milano, alla stazione, sì, centrale. Vuoi farci qualche intervista? No, sono alla stazione centrale. A me sei in un'altra. A Rogoredo. Anonima. No, non te l'ho dirò. A Lambrate. Sono assolutamente. Vabbè, assolutamente. No, e poi arrivano quelli là, sono terribili, dai, è meglio restare anonimo tra la folla. A Garibaldi, a Cadorna. Te lo dico dove sto. Dove sei? Dai, te lo dico. Mando un mio inviato che se ti incontra ti saluta. ti saluti, faccio un appello pubblico. Hai già iniziato col triangolo, col coso, il triangolo Fedez, il Giovanotti, no, Salvini. Il triangolo Fedez, Giovanotti, Salvini. Ti piace Fedez? Guarda, Fedez naturalmente è meglio di Giovanotti, no? Giovanotti non l'ho mai sopportato, mai. Proprio mai, guarda, da quando è fuori negli anni 60. No? Ma che t'ha fatto Giovanotti? No, non mi ha fatto niente, ma come dire, mi dà fastidio proprio fisicamente. No, fisicamente no, questo non si dice, lo so, non è carino come cosa, no. Ma lo trovo poca verità e molta furbizia. Attenzione, parole forti, pesanti. In Fedez trovo molta ingenuità e così. Parole pesanti da vicino, da una stazione milanese, che quale stazione è? Più? Anonimo. Va bene. Allora Vincino, sai chi c'è con te oggi? Voglio salutare una persona che è ormai in rampa di lancio per diventare direttora dell'unità, Chiara Geloni. La Chiara Geloni. Buongiorno Chiaretta. Guarda, buongiorno, che tra poco ti devo fare sentire una cosa. Ieri avevamo Guido Veneziani. Apriamo, lo facciamo sentire subito. Apriamo il Parlamento che te lo devo far sentire subito. Voi sapete che noi qua abbiamo un obiettivo, quello di cercare di spingere Chiara Geloni alla direzione dell'unità. Allora ieri ho chiamato Guido Veneziani, che è il nuovo editore dell'unità. E Chiara, io ci ho provato proprio in diretta. Sentite un po'. Posso fare una raccomandazione in diretta? Chiara Geloni la conosce? Non amo le raccomandazioni, però voglio dire, che me la fai in diretta, vediamo cosa. Se uomo o donna, sì, si orienta, mi sa che va molto anche. Sì, è una rosa di tre uomini che abbiamo visto, con i quali abbiamo parlato. Niente da fare, Chiara. Tu non è che sei uomo un po' dentro? Ma moltissimo. Poi fastidioso. Credo non abbastanza. Cioè, è questo Veneziani però che non accetta raccomandazioni, ma in che paese pensa di vivere? È integerno, perché? Giusto, va bene. Adesso tu pensi di andare in giro a fare raccomandazioni, no? No, ma non lo so, Vincino, ma anche non era anche una raccomandazione. No, io glielo ho detto. Era una segnalazione. C'è una differenza totale. Lui non ha capito niente, Veneziani. Un altro imbecille totale che entra in editoria. Fermati. Cioè, questo che confonde nel suo mondo corrotto, praticamente. Smettila. Ma che raccomandazione? Fermati, che io puntavo Geloni. Ma tra i più giovani intelligenti giornalisti che ci sono oggi in Italia c'è Chiara Geloni. Ho capito, ma che vuoi dire? Sì, ma così ci giochiamo tutto, Vincino. Fermati, se abbiamo ancora una possibilità, se dici queste cose, il problema è questo qua: se tu pensi che con 2000 bottiglie di vino tu risolvi la cosa, non ci riesci. Comunque, il mio obiettivo era Chiara Geloni direttore, Vincino vignettista, però Vincino, se usi queste parole, poi dopo se sei così, poi ci giochiamo le scarse possibilità. Ma io affiderei la trattativa a Vincino, però, perché mi sembra diplomatico. Sì, esatto. Le cose bisogna aggredirle, senza fare tutti. Cioè, Vincino si siede davanti a Veneziani e dice: ok, imbecille. Quali sono i nomi? Dai, dimmi questi tre che sono. No, non li ha detti. Non li ha detti. Ho cercato, ma ha detto: io sono molto riservato. Non lo dirò mai. Magari uno sarà compagno di viaggio dal treno. Ma infatti, Chiara, chi sono questi tre nomi? Dai, tu li sai. Chi ti hanno scalzato? Non so. Lo sapremo presto. Guarda, secondo me, se vogliono tornare in edicola, a proposito, posso seriamente dire. Sì. Tanti auguri ai colleghi, di cuore, proprio. Ma no, è chiaro, io ho fatto questa segnalazione, ma poi abbiamo parlato dell'unità, ha detto che rimarrà il nome Antonio Gramsci, ha detto che si punta al 25 aprile, forse. Ecco, sì, dicevo questo, se puntano al 25 aprile si devono sbrigare, quindi sì, infatti dopo Pasqua. No, è un po' dubbioso sul 25 aprile. È difficile. Però ha detto, se non il 25 aprile, entro i primi 10 giorni di maggio usciamo, quindi Se non è questo, vabbè. Se non è questo, 25 aprile al prossimo. No. Allora, però, voglio subito chiedere un parere a voi due sulla nomina di Del Rio. Perché attenzione, qui ci sono letture diverse. Secondo alcuni, Del Rio è stato messo al posto di Lupi come promozione. Secondo altri, è proprio la classica promozione per, come dirlo con un eufemismo, levarselo dalle palle da parte di Renzi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e la lettura così è soprattutto del Fatto Quotidiano ma anche di Libero a dire adesso Renzi attraverso Lotti controlla la macchina del governo. Tu, Chiara Geloni, di che interpretazione sei? Certo che per chi non è, diciamo, nato sotto la cupola, anche sotto il campanile di Giotto, ecco, campanile è meglio di cupola sotto il campanile di Giotto in questo momento frequentare Palazzo Chigi sta diventando un po' rischioso, cioè praticamente non c'è più nessuno che non sia fiorentino e evidentemente a Renzi piace lavorare con una squadra di fedeli, di amici, di fedeli, di persone che si capiscono al volo. Stai dicendo che Del Rio non lo è, non è fedele? No, Del Rio è molto leale, è una persona seria, leale a Renzi, è tra i primi che si sono schierati con lui e certamente non è in dubbio questo. Non fa parte di una cerchia di amici, di coetanei, di persone che lavorano con Renzi a Firenze da decenni, quindi insomma diplomaticamente ci hai fatto capire che se non sei fiorentino è un po' difficile. Certo, questa cosa della cupola, Vincino, io l'ho capita a metà. Campanile. Insomma, cupola, campanile, no, io per la guardavo da un altro punto di vista, sì. No? Allora, io ho presente la riforma delle province, no? Sì. Praticamente le province stanno tutte là, invece tutto a posto, è chiaro. E mi vedo i lavori pubblici, un ponte fatto col meccanismo riforma delle province, no? Ah. E allora praticamente mezzo ponte ci ha salutato, mezzo ponte l'abbiamo affidato a chi? Ai consiglieri regionali che però ritardano, no? Sì. E tutto è un disastro proprio, i lavori pubblici fatti a riforma delle province è un disastro totale. Disastro totale, non ovviamente. Vabbè, ma secondo te Renzi... È una strada che finisce, no, certo. Una cosa che va, ma... è una cosa, guarda... Non no, è... però dammi una lettura politica, Renzi l'ha allontanato e quindi ho ma una... secondo me se Renzi non... cioè io pensare che Renzi non controlli qualcosa a Palazzo Chigi non è pensabile, no? Renzi controlla tutto benissimo e controllava benissimo pure Del Rio, non è che... Infatti Del Rio negli ultimi tempi non è che dava tante interviste, era un po' poco, insomma, stava là un po' tranquillo. Non... È vero, è difficilissimo intervistarlo, dice sempre di no. All'inizio no, però. All'inizio sì. No, ma poi se l'hai presa bastonata e quindi tac. Ma no, ma che bastonata? Va solo da Lilli Gruber, tra l'altro un abbraccio a Lilli Gruber, ovviamente, visto che ci siamo. Va solo da Lilli Gruber, Del Rio, è così, non... Niente, poche interviste. Era un frontman della comunicazione del governo. All'inizio sì, all'inizio. Molto. Però invece questa cosa del governo, Chiara, una donna ci vuole. C'è Quagliariello che ha detto, ma quando è andato via, chi è che c'era agli esteri? La Mogherini. Abbiamo messo Gentiloni, che non mi sembra una donna, ha detto Quagliariello. Però adesso via Lupi serve una donna, ma... Non si capisce. È andata via anche la Lanzetta, ne abbiamo perse due per strada di queste donne. Quindi e abbiamo preso un Gentiloni e un Del Rio. Buono, no? Cioè, voglio dire... No. Oh, fai la brava! No, l'hai detto in un modo che mi hai... Scusa. Fai la brava. Un altro disastro però la Mogherini, Ecco, vedete questa foto qua, dell'Iran felice che si acchiappa la bomba atomica con la Mogherini e quell'altro americano là con... Ma dai, anche tu si acchiappa la bomba atomica. Pezzo una lancia però, ha fatto questa cosa sul nucleare, importante. No, però vorrei... Un disastro pazzesco, questi con la bolla tireranno la bomba atomica nello Yemen del Sud. Ma chi? l'Iran, ma dai, ma fai bravo. Stanno una guerra in corso, Iran, Arabia, scusami. Ma no, ma aspetta, eravamo sulle nomine di governo, tu mi parli di bombe, di bombe atomiche nello Yemen del Sud. No, vorrei capire, dalla Geloni, questa storia della donna, vogliono una donna, ma non è umiliante leggere sui titoli, vogliamo una donna, ma che vuol dire, cioè, una donna? Te lo devo dire, sì, secondo me sì, è un modo di selezionare la classe dirigente che non riesce proprio a piacermi. Cosa vuol dire una donna? Hai ragione, cioè. Mettiamo la Chiara Geloni a questo punto, a questo punto, essendosi liberato un posto dove non all'unità, ma guarda, è veramente sembra fatto apposta. Sembra fatta apposta. Serve una donna, caro Vincino. Tu conosci una donna che in questo momento potrebbe essere messa non a direzione dell'unità, ma al ministero? Ieri un direttore di tanti giornali mi diceva: cioè, conosci una brava che fa satira, che disegna? Che c'ho un settimanale di donne dove scrivono solo donne e mi serve una disegnatrice donna. Mannaggia questo uomo, vabbè. Ecco qua, stiamo cercando, io ne conosco due bravissime, insomma, ma... Ma là un giornale è scritto solo da donne, però va bene, lo capisco. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra questa adesso? No, c'entra sul tema, non lo so. Guarda, sono ancora in questa stazione, aspetto il binario. E qua sono un po'. Come aspetta il binario? Ma che stazione sei? Aspetti il treno sul binario? No, ma aspetto di sapere quale binario. Ah, ma che stazione? Ma che ti aiutiamo noi? Ha saputo qual è il binario, io sto più tranquillo. Sì, ma se ci dici la stazione, se ci dici la stazione, noi ti aiutiamo qui da internet. Ma che merda. Dunque, là, Italo praticamente. Italo? Sì, quindi sei a Garibaldi, sei a stazione Garibaldi. Sono stato beccato. Ecco, se incontrate Vincino, aiutatelo un attimo, prendetelo sotto braccio, se siete a stazione Garibaldi, cari pendolari, viaggiatori, avvicinatelo, uno con degli occhiali, come sei vestito, Vincino? No, sono in smoking, no, perché esco da una serata mondana. Ma che smoking? Da una serata mondana, ma fai bravo. Un cappello a tre punte e un mantello, eccoci qua. Sì, la parola magica era Fidelio. Sì, va bene, dai, andiamo al traffico, su che è meglio. 24 mattino. Per una settimana respiriamo bene, perché non ci sei e vai in ferie, godile, così stiamo bene noi e anche tu. Oh, stai invece di una settimana, stai un mese. Ciao. Ma quanto sei antipatico quando leggi i giornali, io te la ficcherei a te un pesce in gola. Ma dai, dimmi che veramente vai in ferie una settimana. Vuoi dire che faremo una settimana con un po' di giornalismo vero e non puttanate tipo gossip o cagate del genere che ti diverti così tanto? Sì, buongiorno Alino. Io volevo chiedere a quel cranio di Vincino che critica sempre i 5 Stelle dov'è che hanno sbagliato a votare alla Camera e al Senato. Se te glielo domandi, lui inizierà a fare non so. Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che mi vogliono tenere qui aggrappato al mio posto di lavoro. Hai visto Chiara Geloni come si fa? Non c'è dell'affetto, se c'è dell'affetto, si fa in fretta, si fa in fretta ad essere amati. Non so, lo chiediamo a Vincino, tu che critichi sempre il Movimento 5 Stelle, dov'è che hanno tutte e due le parti, guarda, sia alla Camera che al Senato. Non è che però dovevi fare in fretta, è la risposta immediata. Dovevi fare un po' più vabbè, vabbè, è contento lui, è contento lui. Allora, Chiara Geloni, però c'è il candidato in Liguria, sai che hanno trovato? Totti. Uno che in geografia intanto va fortissimo. Senti qui. Sì, però. Senti. Fino a qualche decina di minuti fa è stata collegata con noi anche per qualche decina di minuti la Repetti, che abita in Liguria insieme a Bondi. E lei ha detto: non è possibile essere trattati così abita a Novi, Novi Ligure, che però non è in Liguria. Però, vabbè, però Novi Ligure frega, cioè voglio effettivamente. Dire, è una domanda trabocchetto, cioè, ci puoi cascare. Sì, voglio c'è, dire, c'è cascato, in realtà non era una domanda, che abita in Liguria, sì abita a Novi, ma in realtà sì, è di Novi ma non abita a Novi, che non è in Liguria, è come Barcellona Pozzo di Gotto, che non ha le Ramblas, ecco. Cairo Montenotte, è come Massa Lombarda. Sì. Massa Lombarda, vogliamo parlare un po' di Carrara? No, volevo dire che sì. Toti sì. Vive in Liguria, a sì. Bocca di Magra, proprio a pochi chilometri da Carrara. Ah, 6-7 chilometri da casa mia. Sì. Sì. Ma dai. Non è vero che lui non ha niente a che fare con la Liguria, la conosco. Sua famiglia vive a Bocca di Magra. Vicino alla Spezia, è vero? Sì, sì, conosco molto bene Bocca di Magra, quei posti, Sarzana, Bocca di Magra, è viva. E, vabbè, e quindi questo lo fa elegibile in Liguria? No, questo no. Lo rende ligure. Poi lo rende ligure. Non so se sia elegibile. Però è lì di confine proprio, perché Bocca di Magra è il confine con la Toscana. È il corrispondente del mio con la Toscana, diciamo, lo stesso tipo di collocazione. Con la candidata che c'è ora. La candidata è la Paita. Sì, quella là che insomma, quella che ha rubato la primaria a Cofferrati, dai. Ah, no, rubato. Sì, quella con i voti del metaforicamente. Metaforicamente fa satira, no, Vincino, no, realmente proprio. No, metaforicamente. No. Il numero 16 portavo poi. Fa satira, Vincino è uno che fa satira. Ti ha trovato qualche nostro ascoltatore di a Stazione Garibaldi? No, non si sente più il cellulare. Prego. Dove sei finito? Sei partito? Non si sente più una minchia. Dove sei finito? Vabbè, sei finito in una grotta, niente. Allora vi voglio, vabbè, no, di Toti abbiamo detto questa cosa, Vi voglio far sentire questa, attenzione, è Pasqua. Tu vai via, Chiara Geloni? Io mi trovo già in una località segreta dove trascorrerò la Pasqua. A Stazione Garibaldi? No, con Vicino, no. Sei anche tu con Vicino. No, non sei lì, sei in località anch'io segreta. Anch'io non voglio dire dove sono. Mannaggia, ragazzi. Stamani è così. Ma tutti così. Questi mi amanti, compagni, questi... Ma dove? In Italia? Questo sì, lo possiamo dire. Sì. Sei in Italia, sei in Toscana. Sei al sud. Adesso vuoi fare come con Vincino, che poi mi fai dire Italo no. E capisci. No, al centro-sud. Al centro-sud. Sei in Italia. In casa di altri. In casa di altri. Ah, vabbè, dai, non indaghiamo più. Comunque, il nostro genio è diventato di colpo il presidente di una commissione diritti civili, credo, all'Europarlamento, tale Moraes. Stava parlando il direttore di Frontex, questa agenzia per l'immigrazione, eccetera, e Moraes dice questo, ovviamente, con la traduzione in italiano. Perché siamo... alla fine della giornata, vicini alla Pasqua, lei ci ha fornito un'analisi della relazione, quindi potrebbe magari concludere per poi lasciare tempo ai deputati. Abbiamo una lunga lista di interventi. Frontex è una questione rilevante, quindi vedo i colleghi si stanno stancando, quindi si può concludere per poter poi lasciare spazio alla discussione, quindi concluda e poi partiamo con la discussione. Insomma, concluda e partiamo con la discussione, perché c'è una lunga vacanza di Pasqua e i deputati vogliono in pratica andarsene. Così Chiara Geloni funziona all'Europarlamento, hai capito? Funziona così nella vita. C'era un deputato qualche anno fa, adesso non è più in carica, che interveniva sull'ordine dei lavori a una certa ora e dice, con una lunga circonlocuzione, era un deputato della Basilicata, diceva: signor Presidente,

moglie quante botte ti darei. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:19. Oggi andremo in diretta fino alle 9:30. Parleremo certamente anche di politica. Lo faremo con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Alle 8:40 parleremo anche di quello che è successo in Kenya, la strage di cristiani, di quello che è successo in Iran, questo dalle 9 alle 9:30 in Iran, l'accordo storico sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, quello che è successo in Svizzera per la verità. Ma prima vogliamo parlare di fisica. Guardate che non mi sono ammattito, io che di fisica non ci ho mai naturalmente capito nulla, prendevo 6.5 al massimo allo scientifico. Ma parliamo di questa materia che per la maggior parte degli italiani è oscura, ma che sa essere anche estremamente affascinante, soprattutto se c'è chi sa raccontarla anche a chi non la mastica più di tanto. È il caso di un libro che è diventato un vero e proprio caso editoriale, è stato scritto ed è scritto da un fisico che insegna a Marsiglia. È un libro che si intitola 7 brevi lezioni di fisica. Pensate che ha venduto già 160.000 copie. Per un libro è una cosa straordinaria. È un libro che parla dello spazio, del tempo che si incurvano, del fluttuare della materia, dell'immensità del cosmo, ma parla anche di noi, delle nostre emozioni, di chi siamo e di qual è il nostro posto nel cosmo. L'autore di tutto ciò è il professor Carlo Rovelli, che saluto. Buongiorno professore e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto lei come si spiega questo successo incredibile per un libro, un saggio che parla di fisica, materia ostica per molti? Non me lo spiego molto. Io quando ho scritto questo libro pensavo che i lettori sarebbero stati molto pochi. Quando abbiamo pubblicato il libro all'inizio sono state stampate 3.000 copie, quindi non me lo spiego. Penso che il libro è piccolo, breve, si legge bene, penso che chi lo legge lo apprezza, gli piace. E ne rimane affascinato, aggiungo io, ne rimane affascinato. Non ho ricordato l'editore, Adelphi, 7 brevi lezioni di fisica, edito da Adelphi. In questo libro mi ha colpito molto leggere che i grandi scienziati, Einstein e Newton, per dire due che conoscono tutti, sono molto colpiti e vivessero di dubbi, no? Lei racconta di questo. Uno scienziato dubita sempre? È una delle idee che danno forma al libro, questo. La scienza stessa, questa immagine della scienza certa che ci dà certezze. Io volevo raccontare quello che penso sia il cuore più vero della scienza, che è un continuo rimettere in dubbio le cose e una continua incertezza. I grandi scienziati arrivano alle idee, non sono convinti che siano giuste, provano a proporle. E la scienza stessa vive rimettendo costantemente in questione la cosa. Quindi il bello della scienza è proprio questo, essere sempre sull'incertezza, andare a studiare là dove ancora non sappiamo, e dire ma potrebbe essere così, forse è così. Vivere di dubbi. Lei racconta di come capì la teoria della relatività, e quando capì la teoria della relatività di Einstein, fu emozionato e racconta di questa emozione che si può provare come, non so, a guardare un quadro che ti rapisce, ad ascoltare una sinfonia straordinaria e magistrale di Beethoven. È davvero così affascinante la scienza? Oh sì, assolutamente. Penso che chiunque viva nel mondo della scienza a fondo senta questo fascino fortissimo e che spesso però resta chiuso fra coloro che si occupano di queste cose. Quindi questo volevo raccontare. Ma è esattamente così, ma penso che l'abbiamo sperimentato tutti, no? Immaginate, ricordatevi quando, non lo so, bambini. Il papà spiegava, guardando il tramonto e il sole che scende, che non è vero che il sole scende, è la terra che sta girando. E uno guarda lontano, guarda il sole che si abbassa e nella sua testa proprio comincia a vedere la terra che gira e si sente girare. È splendido, no? Tutto si muove. Leggendo questo saggio un effetto del genere l'ho provato. Quando lei spiega perché il calore va dalle cose calde, dagli oggetti caldi a quelli freddi. Se tutti sperimentiamo e mettiamo, che ne so, un cucchiaino nel tè bollente, scopriamo dopo un po' che il cucchiaino diventa bollente. Perché il calore va dagli oggetti caldi a quelli freddi? E la spiegazione è incredibile. Per una questione di probabilità, è così? Sì, è così, esattamente. Non provo a ripeterlo per radio, è una pagina del libro, però è così. Non c'è un fluido calore, ovviamente, non c'è un oggetto calore che si sposta da una cosa dall'altro, è la probabilità degli urti fra tutte le molecoline del cucchiaino e del tè che si spengono l'un l'altra. E esattamente, quando uno lo vede, lo intuisce veramente e d'un tratto sembra assolutamente ragionevole, molto bella, questa è l'emozione della scienza. Lei, professor Rovelli, scrive nel libro: la scienza, prima di essere esperimenti, misure, matematica, deduzioni rigorose, è soprattutto visioni. Che vuol dire? Vuol dire che molto spesso, prima delle equazioni, prima delle prove precise, delle misure, di tutto il lavorio tecnico, no, di cui è fatta la scienza, che è essenziale, c'è una grande immagine, questa visione dello spazio che si incurva, Copernico, questa visione della Terra che gira intorno al Sole, e l'intuizione, la fantasia dietro la scienza, non da sola ovviamente, più tutto il resto, però questo è un aspetto fondamentale, una fantasia, cioè immaginare le cose. Uno dei capitoletti del libro sono dei disegni, una serie di disegni che raccontano come è cambiata la nostra immagine del cosmo. Questa è una delle cose che sempre mi ha più affascinato. Io da ignorante ricordo l'emozione nel leggere e anche capire Stephen Hawking e dal Big Bang ai buchi neri, no? Quando ero ragazzo. A proposito del cosmo, la domanda che fanno tutti: lei racconta di come esistano migliaia di miliardi di pianeti simili alla Terra, ma è ancora ozioso chiedersi se esista una vita simile alla nostra? Oh no, non è ozioso, è una delle domande interessantissime e su cui lavora molta gente, sta cercando di dare una risposta credibile, affidabile a questa domanda. Penso che le cose siano cambiate negli ultimi anni, anche negli ultimissimi anni, proprio per la scoperta che ci sono tutti questi pianeti. Cioè, mentre prima sembrava più difficile pensare che ci fosse altra vita simile a questa qui sulla Terra, adesso sembra difficile pensare che non ci sia. Magari in altre forme, in altre versioni. Noi abbiamo poca fantasia in realtà, no? Se ripensiamo dell'altra vita, pensiamo a delle cose come noi, magari c'erano gli uomini con le antenne. Probabilmente la natura ha più fantasia di noi, per cui ci sono più varianti di quelle che riusciamo a immaginare di questa cosa che è la vita. Però io direi con grandissima probabilità c'è questo altrettanto e molto di più in giro per questo universo sterminato. Se io l'ho capita bene, comunque una delle sue teorie è che il tempo sia anche una sorta di illusione, il tempo. Eppure noi sembriamo misurare tutto attraverso lo scorrere del tempo, la nostra vita, voglio dire, è passato, presente, futuro. Sì, illusione forse è una parola un pochino fuorviante, anche se io la uso e l'ho usata. Non è illusione nel senso che il tempo non c'è, non esiste, è illusione nel senso che non è una delle quantità fondamentali dell'universo, no? Come dicevamo prima, il calore non c'è una cosa calore, il calore è un risultato del tanto movimento delle molecoline, e il tempo, credo, è il risultato di processi che avvengono nella scala molto piccola, visti, mediati su tante cose. Quindi la cosa strana, anche difficile da digerire ovviamente, che a livello fondamentale la natura non è fatta di tempo, è fatta di altre cose, e il tempo è un po' come una mela, non ci sono le mele a livello fondamentale, la mela è un oggetto fatto di tante cose. E così è il tempo. Il tempo è questo. Mi corregga se sbaglio, lei, professor Rovelli, si definisce serenamente ateo, è così? Sì. Così, esattamente. Una delle domande alla base di tutto è se religione e scienza possano essere in qualche modo compatibili, possano trovare un punto di contatto. Io penso dipende da quale religione, poi questa è una domanda ovviamente, se lo chiede uno scienziato a un altro otterrebbe delle risposte molto diverse. C'è un atteggiamento religioso dentro l'uomo che penso fa parte dell'uomo, e la scienza la scienza è interessata, credo, a capire questo. Ci chiediamo come ci siamo inventati questa cosa che è la religione, che cos'è, come è nata come collegata col nostro modo di pensare il mondo. Poi c'è un altro aspetto della religione che è più forte in alcune religioni, più debole in altre, che è quello di voler spiegare il mondo. E lì l'atteggiamento naturale dello scienziato è dire: ma quelle sono favole che uno racconta perché non sa le risposte. È più ragionevole dire non lo so e andare a vedere, cercare. Quindi il suo atteggiamento è quello riguardo per esempio alla creazione del mondo, a come, ecco, cosmo. Quello è un esempio tipico, no? Cosa è successo prima del Big Bang, come è nato il mondo? Penso che ci sono due risposte possibili: una è non lo so, stiamo studiando, vediamo, magari impariamo, e questa è l'atteggiamento della scienza. Una è dire sì, lo so, c'era un grande signore con volontà che ha creato tutto. A me sembra un po' come dire: da dove vengono i fulmini? C'era Giove che arrabbiava e lanciava frecce. Lei, professor Rovelli, in questi 7 brevi lezioni di fisica parla ovviamente di Einstein, della teoria della relatività, della teoria dei quanti, ma non trascura le domande fondamentali che tutti noi ci poniamo: chi siamo, che posto abbiamo nel cosmo, che ruolo abbiamo. Ovviamente ognuno può dare la risposta che vuole, anche filosofia questa, non solo scienza, ma lei ha provato a dare una risposta. Io provo a suggerire due cose, ovviamente con finita umiltà e senza nessuna voglia di fare grandi filosofi, semplicemente raccontando come una persona che si occupa di scienza che atteggiamento può avere rispetto a queste cose. Una delle cose è un po' quella che ho appena detto: ci sono tante cose, tante domande a cui non sappiamo dare risposta. Si può vivere benissimo senza dare risposta a queste domande, accettando i nostri limiti. Noi siamo degli oggetti piccolini nell'universo, nostra mente limitata. Qualcosa capiamo, molto non capiamo. E appunto non c'è bisogno di raccontarci delle storie sulle cose che non capiamo, dobbiamo dire che non la capiamo. L'altra cosa, che è un po' il punto d'arrivo del libro, la natura è splendida, sconfinata, variegata. Noi siamo parte di questa natura, non siamo di questa natura così strana, fatta di spazio che si incurva, di atomi, di onde, di campi. Non siamo estranei ad essa, la guardiamo dal di fuori. Siamo un'espressione di questa stessa natura, siamo parte della natura. E questo a me almeno mi fa sentire un po' a casa. Sì. Natura. Non dobbiamo litigare con la natura. Ma non solo non dobbiamo litigare, lei nel capitolo finale racconta che tutte le nostre decisioni, ma anche le nostre emozioni, i nostri amori, le nostre scelte sono seguono le leggi della natura, non si può sfuggire da lì. Eppure questa non è, lei spiega, una limitazione della libertà, cioè all'interno di queste leggi noi siamo esseri liberi di decidere. Sì, è un tema sottile, un tema difficile evidentemente, provo di parlarne. Io penso che quando noi parliamo della nostra libertà, parliamo di una cosa reale, come quando parliamo del tempo, come parliamo del calore. Non è che il calore non c'è, il calore, se tocco un pentolino caldo mi scotto, certo che c'è il calore, però posso comprenderlo come espressione di qualcos'altro. Anche la nostra libertà è qualcosa che sperimentiamo realmente dentro di noi e vuole dire qualcosa importante per noi per decidere. E questo non è in contraddizione con il fatto che non c'è niente in noi che violi le leggi naturali, che sono quelle studiate dalla fisica e dalle altre scienze. Se ci fosse l'avremmo già trovato. Quindi questa illusione di essere altre cose che non la natura, io penso questa sia veramente un abbaglio un po'. Noi siamo il prodotto di qualcosa di molto complicato che facciamo fatica a capire, noi ancora non capiamo. Quindi giustamente ci chiediamo: com'è possibile che abbiamo una coscienza, com'è possibile che abbiamo un pensiero, un senso di identità di noi? Non abbiamo idee chiare su questo. Però professor Rovelli, professor Rovelli, in Italia c'è una scarsissima cultura della scienza. Mi sembra di capire che questo, qualsiasi scienziato possa sottoscrivere questa affermazione. Allora intanto come si spiega questa curiosità per un libro che parla di fatto di scienza, e come si spiega invece il perché in Italia c'è questo scarso approccio scientifico alle cose? La prima domanda, forse le due cose sono legate, cioè penso che l'interesse per questo libro venga anche dalla poca dalla poca presenza della scienza nella cultura italiana. Io penso che gli italiani sono curiosi di sapere cosa ci sta raccontando la scienza, la fisica di cui parlo io e altre scienze, non so, le neuroscienze, per esempio, le scienze cognitive. E quindi c'è curiosità per la scienza. Forse si è molto parlato male di scienza per molti anni in Italia, da tutte le parti, no? E questo è un po' l'antiscientismo italiano. Nella scuola italiana. Ho capito, ma perché? Cioè, lei si è dato una spiegazione di dove è nato tutto questo antiscientismo? Sì, beh, penso che alcuni pezzi di risposte sono abbastanza chiari. La nostra scuola è ancora impostata sulla visione del mondo crociana, in cui la scienza era non sapere. La vera cultura è quella umanistica, storica, la cultura scientifica di serie B. Questa è una cosa. Un'altra pezzo di risposta è forse collegato: oggi nei dipartimenti di filosofia italiana impazza Heidegger e Derrida, dove ancora il vero sapere altro non è quello della scienza. E poi direi forse soprattutto il cattolicesimo italiano. L'Italia è caratterizzata nel mondo occidentale da questa presenza enorme del cattolicesimo, dove ancora una volta il cattolicesimo rispetto ad altre religioni è molto rispettoso della scienza, però sempre ripetendo, va bene, però c'è un vero sapere più importante che va al di là della scienza. Certo. Quindi sono tutti atteggiamenti in fondo che negano la nostra capacità razionale di comprendere il mondo o di comprendere quello che non comprendiamo usando la ragione. Anche lei, professor Rovelli, lavora all'estero, è un cosiddetto cervello in fuga, cioè perché non è docente in Italia? Io sono andato all'estero perché andare all'estero è bello, si impara cose, più si viaggia e più si gira il mondo. Certo, questo senza dubbio. Sarei tornato volentieri se avessi trovato in Italia uno spazio per fare quello che sto facendo. Penso che questo vale per me, vale per moltissime persone. Il problema dell'Italia non è che i giovani vanno via, il problema dell'Italia è che nessuno viene in Italia, né i giovani italiani né gli altri. Per cui mentre che so, a Parigi e a Londra è pieno di persone bravissime che vengono da tutto il mondo, a Roma o a Pisa, Padova, non c'è nessuno, ci sono solo i ragazzetti locali che non sono andati via. Però professore, per concludere, io nel suo saggio non ho trovato una risposta alla domanda che mi attanaglia da un pochino. Mia figlia ha 8 anni e appena nomino le tabelline si butta nella più cupa disperazione. Come posso fare? Penso che sia un ottimo segno, forse sua figlia diventerà uno scienziata, perché io le tabelline le detestavo. Le tabelline è l'antitesi del sapere scientifico, non imparare una cosa a memoria per nulla. Io odiavo le tabelline, tuttora 6x8 ho dei momenti di difficoltà, 7x6 non so. Vabbè professore, mi ha dato una risposta straordinaria, se mia figlia l'ha sentita la prenderà a pretesto per spiegare: papà, ecco perché non so le tabelline. Io la ringrazio molto e voglio ricordare questo libro, che ripeto ha già venduto 160.000 copie. È un libro straordinario perché si legge davvero, sono 80 pagine, 7 brevi lezioni di fisica, edito da Delphi, lo ha scritto il professor Carlo Rovelli, fisico che insegna a Marsiglia, è stato con noi. Compratelo perché ripeto, è affascinante, vi avvicinerete a una materia oscura ma spiegata in maniera molto molto semplice. Grazie al professor Rovelli. Dopo la pubblicità, il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, parliamo di politica. Allora, sono le 8:41 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ora vogliamo parlare un po' di politica, lo facciamo con il vicepresidente della Camera, è Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, a cui do il benvenuto. Buongiorno Di Maio. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Intanto ci spieghi che ci faceva in procura a Napoli ieri, è andato a trovare il PM Woodcock, che è il PM più, come dire, attenzionato in questo momento sui giornali per la vicenda di Ischia. Che ci faceva Di Maio? Ma ieri ho incontrato i procuratori aggiunti legati che si occupano di reati contro la pubblica amministrazione, non ho avuto modo di incontrare Woodcock perché era impegnato in interrogatori sul caso Ischia. Io, come gli altri parlamentari campani, dopo il caso Ischia, che ricordiamo anche ai vostri ascoltatori, ha visto l'arresto di un sindaco del PD Ferrandino legato alle opere di metanizzazione dell'isola, sono coinvolte una cooperativa, è coinvolto un politico corrotto che in questo caso secondo la magistratura doveva essere arrestato, e poi ci sono anche ingerenze delle organizzazioni criminali. Ormai è uno schema che si riproduce un po' ovunque, nei casi Expo, Mose, Mafia Capitale, c'è sempre una cooperativa, un'organizzazione criminale e dei politici corrotti. Quello che abbiamo chiesto ieri alla Procura di Napoli, ed è per questo che siamo stati lì depositando un esposto dettagliato con tutti i casi che ricorrono sempre, è di approfondire l'intreccio che è sempre più frequente tra cooperative, casi di corruzione e ingerenze delle organizzazioni criminali. Però come fa una procura, cioè una procura si muove su un'ipotesi di reato specifica, non so, uno ha una informazione su una specifica cooperativa, su uno specifico appalto e la procura può muoversi, cioè sì, voi chiedete di indagare su tutte le cooperative? No, la questione è questa qui, ormai ci sono dei casi spia, in tutta Italia ormai ci sono sempre gli stessi schemi con sempre le stesse cooperative, perché se noi andiamo a vedere in Expo c'è CMC, nel Mose ci sono le cooperative venete, ci sono sempre queste grandi cooperative, tant'è vero che la cooperativa coinvolta ad Ischia è una cooperativa del Modenese, la CPL Concordia. Allora, quello che dicevamo anche con il procuratore nazionale antimafia Roberti qualche giorno fa è che adesso è necessario che ci sia un coordinamento a livello nazionale di queste inchieste di corruzione, perché non sono più dei casi isolati, anche seguendo il flusso, il filo rosso delle cooperative. Io lo voglio dire qui nella sua trasmissione, la maggioranza delle cooperative per mia stessa conoscenza sono cooperative che fanno e svolgono un grande lavoro anche sociale sul nostro territorio nazionale. Il problema è che ormai non è più un caso che sempre le stesse e sempre più cooperative ce le ritroviamo negli scandali di corruzione. Quello che abbiamo portato ieri alla Procura di Napoli è un elenco di tutti i casi che vedono coinvolte le cooperative, che serva da stimolo anche alle indagini, ma nello specifico noi chiedevamo, anche sulla scorta di interrogazioni parlamentari fatte in Campania, di approfondire anche quelli che sono i legami tra cooperative e sanità, perché anche nella sanità adesso nella provincia di Caserta è stato scoperto un caso con una nostra interrogazione che lo sollecita, tra di una partecipazione ad una costruzione di un ospedale da parte del clan dei Casalesi e passava per una cooperativa. Ma mi faccia capire, Di Maio, sono cose che abbiamo già letto sui giornali oppure voi avete anche portato delle notizie nuove che sui giornali non sono ancora emerse e potrebbero emergere in futuro? Nelle interrogazioni parlamentari ci sono anche delle notizie che noi stiamo sollecitando, perché non costituiscono ancora ipotesi di reato, però secondo quelle che sono anche le notizie di stampa rappresentano una grande preoccupazione sociale. Quello che noi abbiamo voluto mettere agli atti però è una richiesta chiara, coordinare le inchieste legate alle cooperative per cercare di capire come è possibile che si ritrovino sempre negli stessi scandali. Perché non propone invece, che ne so, una commissione parlamentare d'inchiesta? Quello che le posso dire, le commissioni parlamentari d'inchiesta sono state già proposte dal Movimento 5 Stelle sullo scandalo mafia capitale e in più in generale su questo modello di scandalo, corruzione, cooperative e addirittura a Roma è nata una mafia autoctona. Ma in più l'incontro ieri in procura e vari incontri che abbiamo avuto con altri procuratori in giro per l'Italia ormai porta all'esigenza, che secondo me non è più procrastinabile, di una procura nazionale anticorruzione, cioè una procura che abbia la possibilità di coordinare le inchieste di corruzione e unire i puntini, perché alla fine anche il cittadino che vede tutti questi scandali di corruzione sembrano sempre tanti casi isolati, però se c'è un filo rosso, lei dice. C'è un filo. Io dico semplicemente che se una grande cooperativa del Modenese viene a fare i lavori ad Ischia, adesso sembra che l'inchiesta si stia spostando anche verso la Puglia dalle notizie che abbiamo, è qualcosa di molto più grande che un singolo caso isolato. Le chiedo, Di Maio, che ne pensa lei del caso intercettazioni? Cioè, glielo dico più specifico, lei non è solidale con D'Alema, che non indagato finisce nel tritacarne per avere venduto delle bottiglie di vino a questa cooperativa? Ma io parto da un altro presupposto, mi fido dei cittadini italiani e credo che abbiano la loro capacità critica per analizzare i fatti. Se D'Alema non ha fatto niente di male, anche perché io gli imputo responsabilità politiche degli ultimi 20 anni di questo paese, non è la questione legata all'intercettazione, ma se D'Alema non ha fatto niente di male e c'è una notizia sui giornali, i cittadini sanno valutare se quella notizia è sbagliata, se quella notizia chiama ad un fatto immorale o no D'Alema. Ed è questa, secondo me, il metro con cui noi dobbiamo giudicare il fatto delle intercettazioni. Per me attualmente parlare di intercettazioni in un paese in cui chiude un'impresa ogni 2 ore e mezza non è una priorità, e soprattutto se poi la preoccupazione è di coloro che in un'intercettazione telefonica finiscono sui giornali per aver fatto qualcosa che, se non è qualcosa di sbagliato, non vedo perché non possa esserci sui giornali. Se è qualcosa di sbagliato, io lo voglio sapere come cittadino. C'è una questione, c'è una questione secondo me morale, che tutti dicono: chi lo decide se è morale o no quello che ha fatto il politico nell'intercettazione? Lo decidono i cittadini con quella che è poi la propria possibilità di andare a esprimere il voto e così via. La questione, come sai, è quello del cosiddetto sputtanamento, cioè se non ha fatto niente di moralmente riprovevole, però l'immagine che è uscita sui giornali è ma io non vedo come si possa essere sputtanati se non si è fatto niente di riprovevole e niente di sbagliato. Togliamo di mezzo un attimo le responsabilità penali, parliamo però di responsabilità morali. Se c'è una persona che ha fatto qualcosa di immorale, io lo voglio sapere, soprattutto se è un politico, e non mi interessa se poi non è rilevante penalmente, lo voglio sapere. Si chiama anche trasparenza per persone che sono di notorietà pubblica, che addirittura poi chiedono i voti nelle campagne elettorali, chiedono alle persone la fiducia. È meglio che si sappia tutto. La ringrazio ovviamente per essere stato con noi. Buona Pasqua, vicepresidente. Buona Pasqua, sì, buona vicepresidente Pasqua a lei, a tutti gli ascoltatori. Del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Dopo il traffico avremo i nostri lavoratori. Ricordatevi che oggi andiamo avanti fino alle 9.30. Siamo in diretta con 24 Mattino fino alle 9.30. Straordinari, visto che settimana prossima sono in ferie. Lavoratori! Ecco, proprio messa nel giorno in cui faccio l'ultima trasmissione e poi vado in vacanza. Vabbè, lavoratore, però lavoro anche dalle vacanze, dai, mettiamola così. Cosa ridi, Peter Biscapè? Ride, non lo so, ride. Non posso lavorare dalle vacanze? Metti in dubbio questo? Allora è il momento dei nostri lavoratori. Noi vi abbiamo invitato un po' di tempo fa a mandarci mail a 24mattino@radio24.it per raccontare il vostro lavoro, nel quale mettete tutta la vostra energia, la vostra passione, raccontarcelo in diretta. Stanno arrivando tantissime proposte, continuano ad arrivare. Oggi abbiamo scelto, prima o poi veniamo da ognuno di voi, che siete in tanti. Abbiamo scelto Roberto, che saluto, buongiorno Roberto. Ciao Alessandro, buongiorno. Allora, Roberto si è inventato una cosa che io all'inizio non riuscivo a capire nella spiegazione, poi ho capito meglio dalle foto. Mia moglie ha detto: vabbè, ma sei ignorante, io ho capito in due secondi. Ma insomma, è più una questione femminile. Roberto, Roberto cosa fa? Ha ideato e realizzato dei sandali personalizzabili, cioè Roberto? Dunque, è un sistema molto innovativo e semplicissimo da usare, che permette l'acquisto separato di tutte le parti che compongono il sandalo. Quindi la suola, sì, che naturalmente può essere alta, bassa, zeppa, tacco, per il momento siamo a modelli. Poi si può scegliere la fascia davanti, sì, che può avere o non avere accessori, naturalmente anche questa è a scelta, e il modello del dietro, che può essere a schiava, fascia, fibbia, lace, eccetera, eccetera. Il tutto componibile al momento nel punto vendita. Cioè, ma è fantastico. Quindi non è che uno sceglie, non è che una sceglie il sandalo, o uno se vuol fare un regalo alla fidanzata, alla moglie, l'amante o alla figlia. Ma si scelgono le componenti. Quindi questo permette di fare i colori diversi, gli stili diversi, le forme diverse. Esatto. E infatti è proprio un cambio totale di modo di acquistare il sandalo. Non più fashion victim, ma assolutamente protagonista. Questa è una cosa molto importante ed è un periodo storico, diciamo, che è molto sentito. Questa personalizzazione, questa voglia di essere uniche, è una cosa molto semplice. Anche perché uno un giorno ha bisogno del sandalo rosso, perché deve abbinarlo al rosso, poi c'è bisogno del colore che va di moda, poi c'è bisogno con la zeppa alta, bassa, la tomaia, le cose, le suole. Questo è proprio il nostro cavallo di battaglia, perché i benefici per l'utente finale sono molteplici, e oltre a economico, che è evidente, no? Una volta avuta una sola suola, poi posso mettere sopra quanti. Però il gioco dei colori in abbinamento, sia fra di loro o con vestiti e accessori è una cosa molto... Ma come te la sei inventata, Roberto, cioè questa cosa? Avendo moglie e figlia, cinture nere di shopping, è chiaro. Cinture nere di shopping, primo Dan, secondo Dan. Anche terzo Dan. Sì. È chiaro che bisogna inventare. Se vi do in mano uno strumento che non c'è bisogno di andare a comprare 50 sandali, ma ne compri 50 in uno, diciamo. Ma non solo, è molto, cioè uno dei motivi è proprio quello invece di quando andavamo in vacanza, che una valigia dedicata alle scarpe, una valigia. E in questa maniera mia figlia finalmente è andata in viaggio di nozze, è stata via 25 giorni, con 28 cambi. Oh. E l'aveva in due bustine che non prendono il posto di una scatola da scarpe. Cioè, voi capite che da un matrimonio e da un rapporto familiare con cinture nere di shopping può scaturire l'idea di fare qualcosa di così innovativo. Vabbè, Roberto, ma vuoi dare anche magari un sito? So che c'è un sito, dallo pure, qua facciamo ai nostri lavoratori pubblicità gratuita, assolutamente. Bravissimi, sì, è www.robertogiannelli.it. robertogiannelli.it, molto semplice. Volevo dire un'altra cosa, proprio ormai siamo proprio a decantare questo. Un'altra cosa importantissima è che il discorso di comprare tutto separato permette anche la totale personalizzazione della calzata. Cioè, renditi conto che il 77% dei piedi femminili non è regolare. Cioè ad una pianta, per esempio 37, non corrisponde la solita calzata. La pianta è larga, il collo è alto, il piede è magro. Ci avete con i piedi irregolari, sandalo, donne. Con il nostro sandalo si possono mettere le misure adatte. Possiamo fare la famosa scarpa per il crociere. È chiaro, ci avete i piedi irregolari, donne, rassegnatevi. Allora, www.robertogiannelli.it. Roberto, sei stato simpaticissimo, ti ringrazio per essere stato con noi e raccontarci questo lavoro che ti sei inventato. Il sandalo personalizzabile. Va bene, ci fermiamo qui per il momento. C'è il giornale radio, ma come detto andiamo avanti fino alle 9.30. Dopo il giornale radio parleremo di quello che è successo in Kenya, la strage di cristiani e tanto altro. State con noi. Ebbene sì, sono le 9.08 minuti, solo per oggi, sono Alessandro Milan, andrò in diretta fino alle 9.30, siamo qui con tutta la redazione di 24 Mattino, fino alle 9.25, poi ci sarà Mix 24 di Giovanni Minoli, e settimana prossima invece, come vi ho preannunciato, sarò in ferie io tutta la settimana. Di cosa vogliamo parlare da qui al termine della trasmissione? Beh, di quello che è successo ieri in Kenya, davvero scene raccontate dai sopravvissuti terribili, e cioè l'ingresso da parte di miliziani terroristi nel campus universitario di Garissa, è nell'est del Kenya, dunque non distante dal confine dalla Somalia, da dove provengono questi terroristi che sono entrati nel campus, hanno sequestrato diversi studenti, hanno separato gli studenti musulmani lasciandoli andare da quelli non musulmani, in particolare dai cristiani, e hanno ucciso 147 persone, 147 ragazze e ragazzi. Ne vogliamo parlare, saluto padre Giulio Albanese, direttore di Popoli e Missioni. Ciao Giulio, buongiorno, come stai? Buongiorno, buongiorno. Allora, buona Pasqua, anche se come racconta Avvenire è una Pasqua di sangue purtroppo per molti cristiani. Però mi ha colpito questo, Giulio. Oggi Avvenire titola così: nuova strage mirata, mentre il giornale: Olocausto cristiano. Allora, come la mettiamo questa cosa? È una guerra di religione? Non lo è? Oggi è Venerdì Santo e indubbiamente quello che è successo dimostra che purtroppo c'è tanta umanità dolente che viene immolata sull'altare dell'egoismo umano. E questa volta a pagare il prezzo più alto sono stati i cristiani a Garissa. Hai ricordato molto bene che si tratta di una città non distante dal confine con la Somalia. Chi è che ha attaccato? Sono i soliti Al-Shabaab che hanno ammazzato in questi anni un numero indicibile di persone, cristiani e musulmani. in Somalia praticamente hanno fatto fuori i loro correligionari, non fosse altro perché ormai in Somalia sono tutti musulmani e le comunità cristiane sono state praticamente spazzate via. E il problema di fondo qual è? È che guardano al Kenya come al nemico giurato, perché l'esercito keniano, è bene rammentarlo, alcuni anni fa ha deciso di intervenire militarmente in Somalia. E questa cosa naturalmente non va giù agli Al-Shabaab, i quali ritengono che la Somalia debba essere estremista, integralista e applicare la Sharia a tutti i costi. Qui però c'è colpiscono i cristiani per quale motivo? Ecco. Per due motivi. La prima ragione è che comunque il cristianesimo viene identificato con l'Occidente e loro guardano l'Occidente davvero come il fumo negli occhi. Dall'altra però, e questo è l'aspetto importante da sottolineare, colpendo i cristiani bucano lo schermo, nel senso che quando si colpiscono obiettivi cristiani si ha la certezza matematica che quella avere una risonanza avrà mondiale, una risonanza internazionale. L'altro giorno hanno ammazzato numerosi musulmani a Mogadiscio e naturalmente le agenzie internazionali hanno battuto la notizia, però non ha avuto il riverbero che ha avuto invece questa notizia. No, ma infatti è questa la questione che magari approfondiamo tra un attimo. Però Giulio, siccome siamo riusciti a collegarci, io lo voglio salutare perché è un gradito ritorno, col vescovo di Tripoli, ovviamente ci spostiamo, siamo sempre in Africa, siamo in Libia in queste case, il vescovo Monsignor Martinelli, che saluto, buongiorno Monsignor Martinelli. Buongiorno. C'è padre Giulio Albanese dall'altro capo del telefono che l'ascolta, stavamo commentando quello che è successo in Kenya ovviamente, però Martinelli, l'ultima volta che ci siamo sentiti si parlava anche delle minacce di estremismo lì in Libia. Cosa vuol dire vivere la Pasqua da cristiani a Tripoli? Vivere con questa paura latente del mondo musulmano che ci circonda, ma per il momento, devo dire la verità, non ci sono gravi problemi o grosse minacce. C'è però comunque sempre questa latente preoccupazione di tanti cristiani che vivono qui e che sono qui. Quindi devo dire che non, per il momento, ripeto, non c'è una grossa preoccupazione. Però Monsignor Martinelli, di recente i giornali avevano raccontato, certi giornali danno anche delle analisi, a volte devo dirlo superficiali, raccontavano di una ISIS, di questo Stato Islamico che si era impadronito di larghe fette della Libia. Sì. È così oppure no? Sì, ma questo esiste, anche se concretamente non è che è una minaccia continua, quotidiana. È una minaccia, bisogna renderne conto, bisogna avere coscienza di questo. È la preoccupazione che investe un pochettino tutti noi, cristiani e non cristiani, sacerdoti e vescovi, eccetera. Però, ripeto, non è che una preoccupazione forte e non una preoccupazione di tutti i giorni. Ecco. Giulio, però tu l'hai raccontato che in qualche modo c'è una emulazione anche in quello che hanno fatto per esempio gli Al-Shabaab delle modalità brutali con le quali colpiscono anche i seguaci dello Stato Islamico, proprio per avere quella risonanza mediatica a cui ci facevi riferimento prima. E anche perché noi parliamo di movimenti ribelli preesistenti rispetto all'ISIS. Gli Al-Shabaab, non dimentichiamolo, sono una costola delle corti islamiche, quelle che avevano preso il controllo della capitale somala nel 2006. E poi ancora pensiamo anche agli stessi Boko Haram, che sono nati prima nel 2002, addirittura come confraternita, come movimento armato nel 2009. Certamente diciamo che il quadro di riferimento ideologico, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, davvero grida vendetta al cospetto di Dio, perché c'è una intolleranza indicibile, nel senso che chiunque si opponga al loro delirio viene eliminato fisicamente. Nella fattispecie parliamo dei cristiani, ma non dimentichiamolo che sono stati anche fatti fuori tanti musulmani moderati, e quindi da questo punto di vista è importante stare attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. E infatti è proprio qui che voglio tornare alla domanda da cui sono partito e chiederla a voi due. E, oggi Vittorio Feltri sul Giornale scrive così: c'è chi insiste a negare che i massacri avvengano nell'ambito di una guerra di religione, bisogna essere ciechi per non capire che qui si ammazza con diligente sistematicità soltanto chi crede in un Dio diverso da Allah. Ma la domanda la giro a voi. Monsignor Martinelli, è una guerra di religione oppure no? È una guerra di religione, però non è rivolta a tutti i cristiani in particolare. E quindi bisogna avere anche un certo discernimento per capire che questa gente qui non è che apre il fuoco su tutte le persone non musulmane. Apre il fuoco sui cristiani, è vero, ma con un certo rispetto, diciamo, o un certo discernimento su alcune realtà che sono diverse. Giulio, tu hai già detto di stare attenti a questo tipo di generalizzazioni. Sono rischiose, ovviamente, questo ragionamento. Non dimentichiamo che l'intento di questi personaggi è quello di provocare. Ora, premesso che il mondo islamico deve comunque sciogliere il nodo della modernità, nel senso che sappiamo che il vero punto debole è rappresentato dal fatto che di fatto sono stati teocratici, quindi da una parte c'è l'aspetto religioso e dall'altra quello politico. Quindi da questo punto di vista il mondo islamico deve rimboccarsi le maniche e davvero accettare la sfida del confronto con l'Occidente e con quelle culture che da questo punto di vista invece già hanno compiuto notevoli progressi, come nel caso della cultura occidentale. Detto questo, dobbiamo stare attenti a fare di tutte le erbe un fascio, perché innanzitutto, se guardiamo per esempio alla Nigeria, i Boko Haram hanno ucciso più musulmani che cristiani. Come no, e questo come la no. dice lunga. E lo stesso ragionamento lo potremmo dire degli Al-Shabaab, numericamente parlando. Certo, i cristiani sono un target, perché purtroppo vengono associati all'Occidente. Tra l'altro questi signori dimenticano che il nostro Signore Gesù Cristo non era un occidentale, ma è nato in Medio Oriente. Io piuttosto parlerei davvero di una strumentalizzazione della religione per fini eversivi, nel senso che io mi rifiuto di pensare che questi uomini possano essere considerati uomini di Dio. Chi uccide, d'altro canto ce lo rammenta anche il Magistero della Chiesa, pensiamo a tutto quello che è stato detto da Papa Giovanni Paolo II, da Papa Benedetto, da Papa Francesco. In particolare faccio riferimento agli appuntamenti di Assisi, sì, dove sia Giovanni Paolo II che Benedetto hanno convocato uomini esponenti di diversi credi, di diverse religioni, tra cui anche i musulmani. E il messaggio forte di Assisi è sempre stato lo stesso, univoco: non si può uccidere nel nome di Dio. Quindi chi uccide nel nome di Dio non può essere considerato un uomo religioso, una persona religiosa. Allora, io nel ringraziare padre Giulio Albanese, voglio ricordare il direttore di Popoli e Missione, e così come monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, vescovo di Tripoli, ovviamente vi faccio una buona Pasqua. Vi ringrazio. Voglio rimanere però sulle tematiche estere, perché spesso si utilizza l'aggettivo storico a sproposito. Forse questo è il caso in cui l'aggettivo storico si può utilizzare invece a proposito. Di che cosa parliamo? Parliamo dell'accordo che c'è stato ieri, ovviamente andrà implementato, siamo solo al primo passo, sul nucleare e l'accordo soprattutto tra Stati Uniti e Iran. C'è con noi Alberto Negri. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Tu hai già scritto molto bene sul Sole 24 Ore oggi tutta un'analisi degli elementi base di questo accordo che andrà implementato. Intanto, è storico oppure no? Beh, per me sì. Per te sì. Ti posso soltanto dire che io per la prima volta sono andato in Iran nel lontano 1980. Sono passati 35 anni e ne ho 59 tra un po'. Quindi ho visto tutte le fasi della vita di quel paese, dalla rivoluzione, attraverso la guerra Iran-Iraq, attraverso poi le varie guerre del Golfo, i cambi alla presidenza, le varie stagioni, da Rafsanjani al presidente Khatami, a radicale e temibile Ahmadinejad, fino a Rouhani. Praticamente ho passato una vita a in qualche modo occuparmi di questo paese. L'accordo di ieri in qualche modo è più che storico solo per l'Iran, è storico prima di tutto per due generazioni di iraniani che si sono sentiti emarginati, isolati dal fatto che la rottura delle relazioni diplomatiche avvenuta nel 1979 e abbia messo ai margini del Medio Oriente e della comunità internazionale, ma lo è per tutto il Medio Oriente e anche per noi. L'Iran è una grande nazione, è ha chiaro. 3.000 anni di storia. Ovviamente, oggi... ovviamente però Alberto, questo accordo andrà implementato, cioè non, a che punto è? Cioè, quali sono i prossimi passi di questo, dopo ma questa firma? I prossimi passi sono legati soprattutto alla firma entro il 30 giugno, ma forse ci si arriverà ancora prima, di un accordo che metterà, come dire, nero su bianco tutte le varie fasi per attuarlo. Il punto chiave è che verranno ridotte di 2/3 le capacità nucleari dell'Iran, anche del nucleare civile, sì. Che verranno poi tolte gradualmente le sanzioni, e questo avverrà in maniera graduale attraverso le ispezioni soprattutto dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, che dureranno 25 anni, per i prossimi 25 anni. Esattamente, quindi si tratterà di un rapporto, ovviamente le sanzioni verranno ridotte prima, se no non sarebbe un accordo, ma insomma c'è un controllo internazionale sul territorio iraniano e sulle sue installazioni che non c'è da nessun'altra parte del mondo. Anche perché la preoccupazione di tutti, soprattutto di Israele, è che Teheran si possa dotare dell'arma atomica. Ecco, questo, certo. Questo è il punto chiave, no? Sì, il punto chiave per la verità è questo, al di là della propaganda. Già l'Iran è un paese dove l'Agenzia Internazionale dell'Energia era presente da anni. Io ho visitato impianti nucleari come quelli di Bushehr, che erano sotto il controllo delle telecamere dell'AIEA. La capacità iraniana di arricchire il nucleare aveva cominciato a serpeggiare intorno al 2002-2003, quando l'opposizione aveva fatto capire che c'erano degli impianti segreti. Questo aveva sollevato grande preoccupazione e ci sono voluti 13 anni circa, 12-13 anni quasi, per raggiungere un'intesa. Il problema di Israele è questo, che Israele non è che teme ormai più che la bomba atomica possibile dell'Iran, che stiamo cercando tutti qui di disinnescare, teme in realtà l'influenza dell'Iran nella regione, sì. Un'influenza che passa da Teheran attraverso Baghdad, l'appoggio alla Siria e soprattutto agli Hezbollah in Libano, ed è questo il vero problema israeliano. È questione di geopolitica. Perché Obama, secondo te, dice il mondo, se ci sarà questo accordo, sarà più sicuro? Ma non c'è dubbio perché innanzitutto si cerca in qualche modo di fermare in un'area nevralgica, incendiaria del mondo come il Medio Oriente, una corsa agli armamenti nucleari. Se l'Iran avesse puntato la bomba atomica l'avrebbero voluta tutti gli altri suoi vicini, oltre a Israele, sì. Che è in possesso di centinaia di testate nucleari, come sapete. Quindi si cerca di disinnescare in una zona nevralgica dove già sono in atto guerre terrificanti, almeno il problema di congelare almeno l'aspetto nucleare. E poi si cercherà in qualche modo di disinnescare gli altri conflitti, cosa non fa, ci sarà un processo di anni, ma l'Iran, che è schierato contro il califfato, contro lo Stato islamico, in qualche modo può aiutare gli Stati Uniti e la comunità internazionale a disinnescare queste tensioni. In questo Obama dice, se ovviamente tutto verrà rispettato, il mondo sarà un posto più sicuro. Beh, questo è l'unico augurio che penso tutti abbiamo. Grazie ad Alberto Negri del Sole 24 Ore di Radio 24 per essere stato con noi. Mi fermo qui per 24 Mattino di oggi, abbiamo sforato, siamo arrivati fino alle 9.30, ora ci sarà Mix 24 con Giovanni Minoli. Settimana prossima invece 24 Mattino continua. Io sarò in ferie, ma voi potrete felicemente essere accompagnati da Anna Migliorati. Saluto Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Ciao a tutti. 24 Mattino.